Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Vi è mai capitato di pensare con nostalgia a un oggetto, un prodotto ormai fuori commercio? Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Oggi per la rassegna estiva di Essere Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, torniamo a parlare degli oggetti dimenticati e di quelli che dimenticheremo presto. Quali sono i meccanismi che ne regolano il ciclo di vita nei negozi? Parliamo poi di moda e società, ripercorrendo il secolo scorso attraverso i vestiti e le creazioni degli stilisti. Nello spazio dedicato alla grande distribuzione analizziamo le nuove tecniche commerciali legate al baratto, protagonista del focus sui trend, infine lo steampunk, quando il vapore fa tendenza. La borsa della spesa. Oggi nella nostra shopping bag ci sono gli oggetti che non hanno più mercato, sono prodotti obsoleti, usciti dal commercio perché non più usati. È una riflessione stimolata da un libro uscito di recente negli Stati Uniti, si intitola Obsolete, enciclopedia degli oggetti di uso comune che scompaiono. Il libro di Anna Jane Grossman è un elenco curioso e spietato di oggetti e comportamenti fuori moda. Il gettone, le carte telefoniche, le audiocassette, le enciclopedie, la segreteria telefonica, i francobolli e le lettere scritte a mano, le chiavi d'albergo, gli stereo portatili, i floppy disk, i rullini delle macchine fotografiche. È un lungo viaggio quello che passa attraverso gli oggetti dimenticati, le mode tramontate, le tecnologie sorpassate, i comportamenti fuori moda. Racconta molto della trasformazione di questi ultimi anni. Tutte cose che abbiamo date per scontate per lungo tempo, sono state fedeli compagne della nostra quotidianità e poi, improvvisamente, sono scomparse. Dell'elenco fanno parte anche modi di dire, come il mai dimenticato attimino, ma anche comportamenti e abitudini come l'autostop. Chi li vede più ai bordi delle strade quelli con il dito alzato? Oppure il rammendo. Nell'epoca della fast fashion, calze e magliette bucate si buttano, non si aggiustano. Resiste la sarta di quartiere per gli orli dei pantaloni, non così il salumiere, sempre più raro, o il riparatore di telefoni, televisori, computer. La tecnologia divora i suoi figli, si sa. Così i prossimi nominati all'eliminazione dalle nostre vite sono mouse e tastiere che, dicono gli esperti, verranno travolti dai touchscreen. E poi i lettori MP3, quando saremo sempre connessi la musica si ascolterà in streaming, oppure i navigatori, che saranno sempre più integrati nei telefonini. Come vengono regolati questi flussi? Che cosa determina il ciclo di vita dei prodotti nel circuito commerciale? Lo abbiamo chiesto a Claudio Marenco Mores, consulente aziendale, si occupa di ricerca, merchandising e fashion marketing, insegna all'Università di Bologna nel corso di laurea in culture e tecniche della moda. Si sono radicalmente accelerati molto spesso negli anni passati a scapito del prodotto e per una ricerca costante di innovazione più o meno reale, poi in pratica più o meno millantata in qualche misura. Adesso, grazie anche alla famigerata crisi, c'è un'attenzione maggiore, si è tirato in un certo senso il freno e si sta dando maggiore peso poi a quello che sono le reali esigenze del mercato. La mia opinione è che tutta la moda faccia volontariamente in modo di dimenticarsi molto presto, e questo è il sostentamento continuo poi alla creatività, la possibilità di riscoprire da un passato ormai sempre più recente anche elementi, stili, decorazioni, colori, materiali e riportarli a nuova vita. Tantissime case di moda poi tra l'altro in questo momento riscoprono negli archivi, rivitalizzano pedissequamente, punto a punto, i vecchi prodotti. Laurent produce una linea vintage di sue collezioni fatta ex novo. Marchi come Margiela scoprono sui mercatini e dichiarano l'origine di una parte della loro collezione che viene duplicata esattamente come viene ritrovata sul mercato. Nell'istanza di sostenibilità rientra, se vogliamo, anche il concetto di vintage, di riciclo, che sono altre parole particolarmente gradite al mondo della moda in questo momento. Contemporaneamente questo meccanismo contribuisce ad alimentare il collezionismo, il mercato di nicchia, in cui gli oggetti dimenticati diventano merce rara, con quotazioni anche superiori e di molto al loro prezzo originario. Un esempio su tutti, i dischi in vinile, che anche in un periodo come questo, di profonda crisi per l'industria discografica, registrano dati di vendite in crescita a due cifre. C'è sempre la possibilità di un circuito parallelo? C'è sempre la possibilità di un circuito parallelo, c'è sempre stato, è un circuito che richiede una dedizione, un'attenzione particolare. Se la moda riusa tutto quello prodotto, l'intenditore deve andare a cercare qualcosa di veramente esclusivo. Attenzione quando appunto i brand stessi ripropongono o rimettono sul mercato pezzi storici. Io sono ancora un ammiratore e un fan dei mercatini dell'usato o dei negozi vintage, ma molto spesso anche lì si trovano oggetti che sono messi sul mercato scientemente per abbindolarci in qualche modo. Sono stati i tempi, le guerre, i cambiamenti storici a influenzare la moda oppure il contrario? Intorno a questo interrogativo si snoda il film documentario L'abito di domani. Racconta il Novecento attraverso le creazioni degli stilisti, dalla rivoluzione femminista di Coco Chanel a quella borghese dei grandi magazzini. Ci guida in questo viaggio nel tempo e negli armadi Marta Cagnola. Giocare con l'archivio dell'Istituto Luce, curiosando scoprire le sfilate d'epoca, i vestiti, le scarpe, gli accessori. La moda italiana in Svezia. La presentazione dei modelli primavera-estate di creazione italiana dinanzi ai grandi sarti svedesi e ad un elettissimo pubblico della capitale svedese, ospiti della rappresentanza diplomatica italiana. Lo ha fatto Giovanna Gagliardo, regista del documentario Bellissime, presentato qualche anno fa a Venezia. Facendo Bellissime e vedendo molti materiali di repertorio, avevo così per forza della tematica dovuto scartare una marea di materiali molto belli che mi erano capitati sotto gli occhi. E poi con l'archivio del Luce, che è una fonte inesauribile di belle immagini e di notizie, venivano fuori tutti questi cambiamenti attraverso le sfilate, soprattutto negli anni 20 e 30, quando il fascismo cerca di creare una moda italiana, quella che si chiamava la moda autarchica, e lì ci sono dei documenti veramente eccezionali. Allora, quando ho finito di lavorare con Bellissime, ho detto ai miei committenti: ma perché non sfruttiamo tutto quel bel materiale che c'è, facendo un documentario nello stesso stile ma molto focalizzato sul cambiamento del costume e quindi della moda nell'arco di 100 anni. Le definitive conquiste autarchiche dell'industria e dell'artigianato italiano della moda sfilano nella mostra dell'abbigliamento di Torino. Dai forbiti modelli di eleganza automobilistica passa dinanzi agli occhi tutta la gamma dei tessuti moderni, dei più svariati oggetti dell'abbigliamento, delle pellicce, delle calzature. Insomma, il vero paradiso delle signore. Cercando il materiale sempre ci si chiedeva: ma sono i grandi cambiamenti epocali, le guerre, le sanzioni, piuttosto che hanno creato le condizioni per questi cambiamenti, o sono questi persone geniali, che siano calzolai, stilisti piuttosto che sarti, o quelli che lavorano nella maglia e che poi fanno i costumi da bagno, che hanno anticipato i tempi? Allora, questo intreccio è davvero molto bello. In Italia negli anni 30 ci sono le sanzioni per via della guerra d'Africa e quant'altro, quindi non arriva più il cuoio, non arrivano più certe materie prime. E Salvatore Ferragamo prende il sughero e ci fa la zeppa. Coco Chanel nel Novecento capisce che la donna comincia a lavorare, si emancipa, va per strada, prende il tram, si muove sui mezzi e non può certo andare in giro con il busto. Per la primavera, tepida ma spesso capricciosa, è prudente rifornire il proprio guardaroba con un leggero impermeabile. Eccone alcuni originali ed elegantissimi. Moda e società, quindi, entrambe sempre più democratiche. La moda proprio si allarga il proprio orizzonte, non è più una cosa di baronesse, di contesse o di gente molto abbiente, ma pian piano scende per le strade fino agli anni 60, quando è la strada a dettare la moda. piedi e gambe. Meno li si usano, più questi arti preziosi che hanno spinto l'uomo e la donna lungo gli erti sentieri della storia diventano oggetti di cure e di malizia. Diamo dunque un'ultima occhiata finché la minigonna dura. La maxi è alle porte. Calerà il sipario su una stagione breve dell'uomo e della donna. Ma perché l'abito di domani? L'abito di domani perché è un po' veramente l'aspirazione dal basso come dall'alto è sempre quella di essere colei o colui che indossa quell'abito che domani sarà la bandiera del proprio tempo. Diciamo un'aspirazione a vestire l'abito che segna il tempo. E adesso pensiamo all'autunno, quello della moda naturalmente, che a Roma ha fatto le grandi manovre di questi tempi, cominciando dal trucco che va pesante e marcato come 30 anni fa. Un'occhiata al retrobottega, dietro le quinte, è giusto il tempo di notare che la moda autunno-inverno, anche stavolta, è tutta una nostalgia. Le acquirenti USA sembrano interessate, quasi convinte. Sotto con la sfilata allora, guardate e ammirate. Lo avrete notato, quest'anno va di moda vestire comodo, largo e lungo insomma. Il cappotto scozzese ritorna come classico paltò, completo di stivaletti guarniti di pelliccia. Il documentario si ferma tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, ma solo per ora. Giovanna Gagliardo sta preparando la seconda parte. Quello che ancora non c'è nel documentario è tutto quel Made in Italy che viene all'inizio degli anni 70. Gli Armani, Crizia, Versace e tutta questa nuova leva di allora ancora non c'è nel documentario. Si tratta poi di raccontare il presente. Cambiamo argomento con il direttore di Markup, Luigi Rubinelli. Analizziamo la grande fortuna che sta vivendo il baratto, da pratica primordiale del commercio a fenomeno di costume con gli swap party. I ben pensanti dell'economia, quando sentono il termine baratto, sobbalzano sulla sedia. Un po' perché credono sia un termine desueto, un po' perché non è affatto trendy. Il problema è che il baratto non è un business del terzo e quarto mondo, ma del primo, cioè del nostro sistema. Lo è diventato, soprattutto negli ultimi 2 anni, quando il circolante nelle imprese si è ridotto drasticamente a causa delle politiche restrittive messe in atto dalle banche. Le imprese però non hanno perso il buon umore e hanno cercato altre strade, quelle antiche per esempio, e sono ricorse appunto al baratto, allo swap, come dicono gli inglesi. E improvvisamente il baratto è diventato un'attività economica sostenibile, un termine che, come gli ascoltatori sanno, è terribilmente in sintonia con l'economia che verrà. Marina Martorana su questo tema ha scritto addirittura un libro edito da Vallardi. L'intuizione è felice perché oggi si può barattare di tutto, capi di abbigliamento, articoli di arredamento, case per le vacanze, prodotti di elettronica ma anche prestazioni professionali e ore del proprio tempo. Insomma, avrete capito che il baratto è diventato uno strumento di marketing un po' per contrastare la crisi attuale, come appena detto, un po' per essere davvero ecosostenibili in futuro. Un ultimo esempio per essere chiari su questa nuova tendenza, non alternativa ma complementare. Quando un'azienda ha il magazzino pieno, si può rivolgere al cosiddetto barter, il manager del baratto, un professionista che ritira gli stock di invenduto e li piazza in altri canali commerciali. Molta pubblicità, rimanendo nel campo della comunicazione, è pagata in prodotto reale e non in denaro e magari finisce sui canali di media shopping o in qualche factory outlet un po' troppo elastico. È appunto la nuova frontiera del baratto. Seconda parte di Essere Avere, dedicata come sempre all'analisi delle nuove tendenze. Ci ha raggiunto in studio Patrizia Martello, direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF. Buon pomeriggio Patrizia. Grazie, bentrovati. Oggi parliamo di steampunk. Il termine indica un filone della narrativa fantascientifica che introduce tecnologie anacronistiche in ambientazioni storiche, per lo più ottocentesche, meglio se della Londra vittoriana. Una sorta di futurismo dal sapore retro, un mix di tecnologia e romanticismo che contagia non solo letteratura, cinema, musica, ma anche moda, design, arte e comunicazione. Fantascienza a vapore, la definizione definizione che ho trovato in rete, secondo me molto efficace. Patrizia? Sì, fantascienza a vapore mi piace moltissimo perché evoca proprio immediatamente le storie steampunk che descrivono appunto questi mondi futuri ma ambientati nel passato, in cui prevalgono armi, marchingegni, strumentazioni, insomma tecnologie che vengono azionate dalla forza motrice del vapore, appunto steam in inglese, e non dall'energia elettrica. Per chi vuole approfondire, alcune segnalazioni imprescindibili: una rivista americana, la più importante, si chiama Steampunk Magazine, e poi Tor.com, questo ricchissimo portale web dell'editore americano Tor, consacrato totalmente allo steampunk, e un paio di libri, un classico che poi è l'anello di congiunzione, diciamo, tra cyberpunk e steampunk, La macchina della realtà di Gibson e Sterling, e poi Steampunk, manuale per l'utente, sempre di Bruce Sterling. Dunque, steampunk è un mondo, è più mondi, è un movimento culturale, è un genere letterario, è una tendenza estetica e diventa anche uno stile di vita. Quindi trova espressioni proprio per questa molteplicità di nature in molti prodotti culturali e non, perché andiamo dai film all'arredamento, alla musica, ai libri, ai tessuti. Provo a raccontare e descrivere questo mondo dello steampunk. La moda steampunk non ha dei canoni definiti, non cito nessun marchio, nessuno stilista. Infatti è una moda che si contamina con l'estetica post-apocalittica e può consistere in cose anche molto diverse, da acconciature alla moicana o dreadlocks con inserti metallici, al massiccio ricorso al piercing, oppure all'utilizzo, questo è più facilmente immaginabile, di corsetti, sottovesti, anche di tulle a brandelli, a strati, con crinoline, cappelli a cilindro, tutto un po' sgualcito, polveroso, stivaloni con fibbie, suola larga, anche gli accessori, soprattutto i gioielli, anelli, bracciali, collane, sono tubicini metallici ritorti, meccanismi incastrati uno nell'altro, molte fibbie, molte cinghie, tutto rigorosamente brunito, un po' ossidato. Per esempio gli occhiali hanno sempre degli inserti in cuoio, delle viti e bulloni che sporgono, le lenti sono tipo cannocchiale, poi le stanghette sono cinghiate e avvolgono l'intera testa. Via di questo passo, anche gli orologi sono sostanzialmente una spira metallica con degli inserti di tessuto che avvolgono il polso ma anche l'avambraccio, e anche qui gli ingranaggi sono multipli, ridondanti. Insomma, sono tutti oggetti molto barocchi e proprio sono delle piccole architetture intricatissime. Da un punto di vista funzionale, anche tutto questo è abbastanza inutile, se non addirittura ostacolante, proprio per i volumi eccessivi, queste forme che non sono compatte ma contorte e quasi impossibili. Tutto questo ha a che fare con lo steampunk design, inteso proprio come il progetto, il progettare gli oggetti con questa matrice culturale steampunk. E tra le creazioni più bizzarre abbiamo gli oggetti e i gadget di elettronica di consumo in puro stile vittoriano, questa è l'ambientazione storica prediletta. Allora, abbiamo cellulari che hanno delle cover che li fa sembrare degli oggetti di ferro arrugginiti, con le giunture, le cerniere rose dal tempo, e idem gli auricolari, le penne USB, anche i monitor LCD, quindi le televisioni, mouse e computer. Quindi abbiamo degli schermi profilati di metallo colottone con delle dorature tutte ossidate, e le tastiere hanno quei tasti rotondi, bruniti, assolutamente antiergonomici, delle macchine da scrivere meccaniche. Ecco, questo è un termine importante perché lo steampunk è la tecnologia digitale di oggi travestita con un'operazione un po' di morphing, quindi di trasformazione, da tecnologia macchinica, quindi un po' polverosa di ieri, come se fosse la contemporaneità e la tecnologia, le macchine di oggi, con la faccia di ieri, quindi un digitale che fa finta di essere ancora analogico. Tutto questo naturalmente prevede non una produzione seriale, ma pezzi unici, fatti a mano, perché poi la manualità, lo smontare e rifare le cose è un gesto coerente con l'immaginario proto-industriale che lo steampunk alimenta. E c'è un film uscito di recente che è stato indicato come il film di riferimento per questo ritorno di fiamma dello steampunk. Scopriamo quale. Ho una richiesta. Devo vedere una persona. Sherlock Holmes. Signor Holmes, deve aprire gli occhi. Lei sottovaluta la gravità di quello che sta per accadere. Domani, a mezzogiorno, il mondo che conosce svanirà. Beh, allora non c'è tempo da perdere, giusto? testimone dichiara di aver visto Lord Blackwood alzarsi dalla tomba. Deve trovarlo e fermarlo. Spremerò tutta la mia non trascurabile esperienza. Per lei sarà anche un passatempo, signor Holmes. Per me è un mestiere. Fa una notevole differenza se posso avere a disposizione qualcuno su cui fare totale affidamento. È sempre un piacere, Watson. Si era mai lamentato dei miei metodi? Non mi lamento mai. Mi lamento quando suona il violino alle 3 di notte. Mi lamento del suo disordine, della sua scarsa igiene o del fatto che mi ruba i vestiti. Oh. Si comporti da signora! Oh, non c'è nessun limite alla sua depravazione? No. Patrizia, Sherlock Holmes e atmosfere vittoriane, ma non solo, ci sono anche applicazioni medievali, western, addirittura nell'antica Grecia e nell'antica Roma dello steampunk. Sì, possiamo vedere altri titoli del cinema a vapore, per usare sempre una dicitura che compare anche nel primo blog italiano di steampunk, è steampunkitalia.wordpress.com. Allora, abbiamo La leggenda degli uomini straordinari, che è questo film d'azione del 2003, considerato il film steampunk per eccellenza, tra l'altro derivato dallo storico, ormai paradigmatico per il genere, fumetto La Lega degli Straordinari Gentlemen di Moore. E qui appunto abbiamo le atmosfere, i rimandi continui, le continue citazioni al romanzo d'avventura ottocentesco. E poi The Wild Wild West del 99, che racconta appunto il mito della frontiera dal punto di vista sempre della contemporaneità, dentro questo gioco di futuro proiettato nel passato. Per i fumetti, li chiamiamo fumetti a vapore, c'è questa recente nuova miniserie di Casa Bonelli, ambientata a fine 800, 12 capitoli, si intitola Greystorm, dal nome appunto dell'oscuro protagonista. Racconta di questo inventore malvagio, affascinato dai romanzi di Jules Verne, cultore del progresso tecnologico, è un eroe totalmente negativo che poi alla fine si ravvederà, salverà il mondo, e questa è un po' la trama. Dal punto di vista grafico, sia l'abbigliamento, la capigliatura, la barba eccetera di Greystorm, che i mezzi volanti, quindi queste navi dirigibili e tutta l'ambientazione futuribile, hanno una caratterizzazione totalmente steampunk, anche perché le tavole sono veramente piene di tecnologie curatissime, in questi dettagli molto barocchi, molto arzigogolati. Un altro esempio è il castello errante di Hall di Hayao Miyazaki, cambiando genere, passando al film d'animazione, questi scenari stravaganti, magia, mostri, la casa fatiscente in rovina, questo castello che è un impianto industriale d'antan, le pulegge, le cinghie, insomma, poi addirittura un soggetto antropomorfico. E poi abbiamo i vinyl toy, si chiamano Mectorians, è una serie realizzata dall'artista illustratore underground Dr. A, in perfetto stile steampunk, e anche qui abbiamo l'animaletto ingranaggio, il sottomarino piovra, i retro robottini, eccetera. Insomma, stiamo assistendo a una nuova grande stagione di interesse intorno a questo sottogenere che è maturato insieme alla fantascienza, ma come dice lo stesso Sterling, è diventato popolare adesso perché non è più soltanto un romanzo, quindi non è più soltanto una nicchia di un sottogenere letterario. Quindi, come abbiamo visto, una cifra stilistica del design, un'estetica diffusa, un movimento controculturale, un metodo creativo, un fai da te per ridefinire, ricostruire gli oggetti, e anche un sistema valoriale, perché proiettare scenari fantascientifici nel passato preindustriale significa anche reinterpretarli con i valori dell'epoca del vapore, appunto. E quindi mi colpiva, per esempio, in una serie di cartoni animati che si chiama Full Metal Alchemist, che è ispirata all'omonimo manga che passa su MTV, la storia di questi due fratelli alchimisti. Appunto, mi colpiva il filo rosso che è sempre sullo scambio equivalente, che è questo principio dell'alchimia, che diventa un valore sociale, relazionale, cioè dare qualcosa per poter ricevere qualcos'altro, ovvero non c'è avere senza dare. Insomma, un principio che nella serie viene espresso come non presente nel mondo reale, ma che la stessa serie steampunk dice che dovrebbe invece regolare la società. Questo è un bel esempio, insieme alla guida steampunk all'apocalisse, che propone un futuro a bassa tecnologia, sono dei begli esempi di una sovversione, diciamo, costruttiva rispetto a un futuro che si potrebbe ispirare a questo mondo. Cosa c'è di nuovo a Cosa c'è di nuovo a Oxford, Inghilterra, su steampunk e dintorni? Questo è il momento delle nostre Urban Watcher. Di me, mi Alessia Zampano, bentornata. Grazie, un saluto a tutti. Come dicevi, siamo a Oxford perché nella cittadina inglese si conclude proprio oggi la prima esposizione internazionale di arte steampunk. La mostra è stata inaugurata lo scorso 13 ottobre e allestita al Museo di Storia della Scienza dell'Università omonima. E mai location fu più adeguata. La sede del museo è infatti uno storico edificio risalente al 1693, l'Ashmolean Building, che ospita una vastissima collezione di strumenti scientifici, quadranti, astrolabi, orologi solari, strumenti ottici, attrezzature da laboratorio, che di per sé fa di questo luogo un paradiso per gli steampunk addicted, gli appassionati del genere. Il sottotitolo della mostra, in puro stile steampunk, come abbiamo ormai capito, recita: immaginate la tecnologia di oggi con un'estetica vittoriana. Il curatore, l'artista newyorkese Art Donovan, ha riunito 18 tra artisti e designer che a livello internazionale sposano questa estetica, e il risultato è stata una galleria impressionante di sculture e meccanismi dal sapore retrofuturistico e grottesco. Robot super accessoriati, lampade da parete con ingranaggi e valvole, maschere antigas per pachidermi forgiate nell'ottone, animali meccanici e bizzarri motori a vapore, solo per citare alcune delle opere realizzate. E forse si deve anche alla risonanza internazionale che ha avuto questo evento, se appunto in questo momento quella che per anni è stata una subcultura di nicchia viene, per così dire, sdoganata presso un pubblico più vasto. Grazie Alessia. Patrizia, per descrivere l'atmosfera steampunk, Wikipedia cita questo slogan: come sarebbe stato il passato se il futuro fosse accaduto prima. Sì, l'abbiamo detto, c'è questo gioco di proiezione di futuro nel passato che ha generato questa sorta di futuro anteriore. Farei una considerazione finale sul portato ancora sovversivo dello steampunk come mentalità filosofia, proprio perché come subcultura ascrivibile alla mentalità punk si presta costitutivamente, possiamo dire, a sollevare istanze sociali e politiche. I vari movimenti in questo momento stanno anche interpretando e filtrando attraverso la loro matrice culturale e con il loro approccio, per esempio, i grandi temi ambientali contemporanei. Parlano di ecoresistenza, eco-hiking, guida steampunk all'apocalisse che abbiamo citato prima, che propongono come un imprescindibile manuale in caso di collasso della nostra civiltà ipertecnologica. Appuntamento come sempre a domenica prossima alle 16 per il meglio di essere e avere. La rassegna estiva del programma prosegue fino al 12 settembre, poi al via le nuove puntate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.